1269, 1269, la senti questa voce? Punto interrogativo. La senti questa voce? Porca miseria. Si sente, qualcuno me lo dice, se si sente, mannaggia la porcaccia di una miseria. Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Si sente oppure no questa voce? Mannaggia la miseria. Questa sera pensavo di fare qualcosa di un po' diverso, qualcosa di un po' più personale, qualcosa vi possa raccontare, vi possa dire qualcosa. Quindi stasera pensavo di fare una trasmissione molto tranquilla, per niente cupa, per niente strana, una cosa proprio tranquilla. La mia voce, un po' di rumore, così, giusto per mettermi nella condizione giusta, nel posto giusto. Che ne dite? Potrei anche girarvi un po' intorno, ma non lo farò. Pensavo quindi di fare una trasmissione così, sui generis, hic sunt leones, eh? Una cosina tranquilla, magari con un po' di musica, magari con qualche voce, una cosa buona per farvi dormire bene, dopo tutto è domenica, domani è lunedì. Così dormite bene. Ecco, questo è quel bastardo del mio gatto che viene a farmi compagnia stanotte. Strano desiderio. Oddio, strano, chi mi conosce lo sa che non è strano. È più che altro un desiderio di quelli che ti prende la gola, di quelli che ti fa alzare le orecchie, che diventano quasi delle corna, delle cornine ai lati della testa, due orecchie antenne pronte a cogliere qualsiasi rumore, qualsiasi impulso, qualsiasi qualsiasi voglia di follia. Signor Marin Marais, I always say we're nothing without an idea. So it's the ability to catch ideas that we love. Everybody, you know, artists, they just love ideas, and they love translating ideas to one medium or another. It's so thrilling. It will get, if you learn the technique to dive within, experience the big ocean, unified field, you'll get more creativity, you'll get more happiness in the doing, you'll get more energy, and you'll see heavy weight of negativity lifting away, giving you more freedom. Yes. You'll be able to catch ideas when you expand consciousness. Everybody's got consciousness, but not everybody's got the same amount. If you want more of it, dive within, transcend, and all avenues of life improve. Credete a questo ciarlatano di David Lynch? Ci credete veramente che la vita, lavorandoci sopra, diventa migliore, diventa più cosciente, più consapevole? Voi davvero ci credete? O l'avete provato? Avete provato a espandere la vostra coscienza? Avete preso le vostre droghette, i vostri funghetti? Vi siete espansi mentre qualcuno si espandeva da ridere guardandovi, In fondo cos'è la coscienza se non l'essere presenti al proprio disastro, Non lo so, io non so nulla qui, chiedo. Vi faccio magari ascoltare qualche altra cosa, qualche altra cosina, magari qualcosa che devo a Celeste. Quasi lunedì, vuoi dormire, vuoi veramente dormire, Non ti basta avermi a destra e a sinistra, Sento veramente meglio, adesso adesso. Ah, che sto pulendo questo corpaccio, mi sento molto meglio, già molto molto meglio, molto meglio. E adesso che vi faccio sentire? Non lo so, non ho preparato praticamente nulla, come al solito, e non so veramente che mettere. Mi sa che vi metto qualche cosa di assurdo, eh? Qualcosa di assurdo, assurdissimo, qualcosa di infernalmente assurdo. Mia papia, mia papia, mia tua papia, mia papia, tua papia, mia papia, tua papia, mia papia, tua papia. Stasera purtroppo Celeste non c'è, quindi mi tocca mettere cose da me. E ovviamente non ho preparato nulla, nulla, proprio nulla. Nulla, non ho preparato nulla, niente. Niente di niente. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle hair and the way you like the dragons. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie. E vabbè, alle volte mi sento infernale. Alle volte mi piace appoggiare il piedino nell'acqua del paradiso, eh? Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere, change the color of your hair, and are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle head and the way you like the dragons. I want you to come on over. Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Dai, vieni. Valerie. Vienimi a trovare anche solo con un messaggino. Valerie. Vieni, Valerie, vieni. Valerie. Prometto che faccio il gentiluomo. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the dragons. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie, yeah. tugurio buio. Prendi l'impermeabile nella pioggia e vieni a cercare Valerie, dai. Non ti fare aspettare troppo. No, dici che il tempo è un po' piovoso, non ti piace, fa un po' schifo, eh? Poi devi prendere la barca, attraversare il lago, arrivare fino su, eh? Non ti va un granché, eh? Va bene, come non detto, non ti preoccupare, facciamo la prossima volta, no? Eh già. Sono un stupido romantico perditempo che cammina nudo per casa una notte di settembre. Che ci volete fare? E benvenuti su Radio Antidoto. I hit the city and I lost. I watched a needle take another man. Gone, gone, the damage done. I sing a song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a city. I seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. Every junkie's like a setting sun. Allora, hai ancora paura di me? Hai ancora paura di quello che ho nella testa? Di quello che magari nascondo, eh? Hai paura oppure no? Da che parte arrivo? Della tua testa, eh? Davanti, di dietro, di lato, eh? Clippa, clippa. Casino quest'audio che clippa, un buon clippa, che fai con l'audio? Clippi, no? E non clippare, non clippare, friend bin ich ein fremd sich wieder aus, der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach voll Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach voll Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt so trübe, come sempre sono piccolo passetto sull'asfalto rovente che ho dentro il cuore, e questo piccolo passetto diventa quasi un punto d'appoggio per lanciarsi verso l'alto e poi planare verso il fondo della valle. Che palle. Es zieht ein Mondenschatten, ein es mein Gefährte mit. Und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Man mich trieb hinaus, lass ihre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Das war, Gott hat sie so gemacht, von einem zu dem anderen. Ascoltando, sei ancora lì attaccato alla tua radio, al tuo cellulare, al tuo portatile, stai ancora ascoltando Radio Antidoto di notte, di domenica, come un pazzo qualsiasi, una pazza qualsiasi, eh? Sei ancora qui con me, eh? A condividere questi secondi, questi respiri. Dai, prova a respirare fino in fondo, vediamo se ci riesci. Respira. Riesce a respirare. Sigil, and he actually taught his readers in the letters page how to perform sigils. And it's a really good entry into magic because it's very simple. So I picked up on it because it seemed to be something that worked. To construct a simple sigil, write down your desire in the form of a sentence, then take out the repeated letters, take out the vowels, and you'll be left with a string of consonants. Then take those consonants and rearrange them and mash them together until you've got something which doesn't look like the original sentence, which is its own little glyph. The idea is that you activate the sigil, and that's where it gets to be fun. Look at that sigil, meditate on it, and masturbate. While you're staring at the sigil and at the peak pour all your concentration into it, and hopefully and generally you will find that the thing you want to roll slowly into your life. He says something and then somehow events align themselves. He practiced a basic form of magic called the sigil, and he actually taught his readers in the letters page how to move sigils. I never sleep when you're gone. Caught in my abstinence, it's curious, it still keeps me up. It's just a little quick, it's a troll to know and listen in the run. Sick of the life, I'd arrive, I need it more. You know, I never fuss when you leave. But all of my abstinence is penitence, I act as you see. I love like a smoking gun, rip the shot and I hit and run from the scene. You're sick of life, I don't lie, the ones you need. La strada. Ed egli si rivolse a lui dicendo: per quale strada salirò io a Gerusalemme? E il fanciullo gli rispose: dimmi il tuo nome, perché io possa indicarti la strada. Il fanciullo sapeva chi era Paolo, ma voleva intrattenersi con lui, con le sue parole, per trovare un pretesto per parlare con lui. Il fanciullo quindi proseguì dicendo: io so chi sei tu, Paolo. Lo so, tu sei colui che fu benedetto fin dal grembo materno. Perciò sono venuto da te affinché tu possa salire a Gerusalemme dagli apostoli, i tuoi compagni. È per questo motivo che io ti ho chiamato. Sono io lo spirito che ti accompagna. La tua mente si sveglia, Paolo, svegliati. Tra gli arconti e queste potestà, e gli arcangeli e le potenze e tutta la stirpe dei demoni e la casa di colui che svela i corpi al seme di un'anima. Terminate queste parole, gli proseguì dicendo: la tua mente si sveglia, Paolo. Vedi che la montagna sulla quale stai è la montagna di Gerico, di modo che tu possa conoscere le cose nascoste e quelle che sono manifeste. E ora tu andrai dai 12 apostoli, poiché essi sono gli spiriti eletti, ed essi ti saluteranno. Paolo alzò gli occhi e li vide, e essi lo salutavano. Allora lo Spirito Santo che parlava con lui lo afferrò e lo portò in alto, su, fino al terzo cielo, e poi oltre fino al quarto cielo. E lo Spirito Santo gli parlò dicendo: e guarda, sulla terra, vedi la tua somiglianza. La mia somiglianza, disse Paolo, e vide che quelli erano sulla terra. Ed egli allora lanciò uno sguardo verso Dio che è al di sopra della creazione, poi guardò su in alto e vide i 12 apostoli sulla destra e sulla sinistra nella creazione, e lo Spirito davanti a loro che rideva che rideva come un pazzo. Lo Spirito non era uno Spirito Santo, era uno spiritoso, uno spiritosello. E Paolo ci rimase malissimo, molto male, molto male. Gira su quell'asse, alza quei piedi, dai, che ti frega se è morto, danza, fatti girare dagli spiriti dei morti e dei vivi, lasciati girare sul tuo asse, tutto ciò è bellissimo. Oddio, che mi è venuto in mente? Ah, dolore terribile, mi muovono le viscere. Ah, oddio, gli anni 80, ah, che orrore, ah, male, molto male, malissimo. This has the potential to change lives. Some things aren't meant to be changed. Here. Does it work? Like we predicted. With one exception. The drug has radically boosted brain functioning. You mean increased intelligence? We got a fatality. You have no idea what you're dealing with. They're not people, you know. Schifoso, verdastro, sbrodola, magma ruminante, riflessi blu neon, e io mi fermo dinanzi all'ennesima vetrina di scarpe colorati, anabolizzati, falsificati, invertiti, tritati e poveri sfasciati segnano di passi morti la via. Che vi diresti di un salto al Mac? Una bionda, faville scintille, luccichio di falso, dentino di carta stagnola, sangue, ossa, occhiaie perenni, mi sorride, poi scompare nel magma ruminante, riflessi crudeli e blu. E io mi perdo, non vedo dove porti la scala, ma pochi pezzenti, 30 denari e subito via. E subito via, perenne alchimia. acqua cristallina che come uno specchio si spezza attorno alle tue mani. Sei ancora lì con me, con noi, con Radio Antidoto. Questa domenica strana, un po' allucinata, un po' atipica, sei ancora. Sono gli ultimi 5-10 minuti. Yeah. lo zio Fred ringrazia. Radio.